Quindi vi ho parlato del film ieri, voglio parlarvi di un altro episodio. Questo Natale è venuto alle 7:30 del mattino, è venuto da noi Raul, che è un ragazzo sudamericano, figlio di contadini, e si è dovuto trasferire in Italia perché là non c'hanno da mangiare a sufficienza, è dovuto venire qua. E lui lavora tutto il giorno per poter mantenere poi la sua famiglia là. Lui alle 7:30 del mattino del giorno Natale era qua. Aveva preso il treno, quindi si era alzato alle 6, aveva preso il treno e era qua. Io gli ho aperto la porta e ho guardato. Era bello sorridente, bello contento. Perché? Perché aveva un lavoro. Perché quel giorno lì, giorno di Natale, poteva guadagnare dei soldi. Io mi sono detto dentro, ma quest'uomo ha un'etica nei cui confronti la maggioranza delle persone se lo sogna. Cioè, questo è un uomo contento perché ha da lavorare ed è grato perché ha da lavorare. La maggioranza delle persone dicono: ah, ma questo lavoro non mi piace, quest'altro no. Ormai i lavori più duri vengono fatti dagli stranieri, come sappiamo, no? Bene, perché quest'uomo mi ha colpito? Mi ha colpito perché ho detto: ma scusa, che differenza c'è tra me e lui? Io sono nato in un posto più favorito, se no. E lui, per essere quello che ha dovuto lottare molto, lui da giovane ha preso la decisione di essere veloce, di essere sveglio, avrebbe potuto prendere un'altra, di essere lento ed essere imbecillito. Lui ha detto: no, io voglio essere sveglio. E lui è capace di fare tutto ed è contento mentre lo fa. Allora mi sono detto: ma se lui al mattino di Natale si alza alle 6, mi devo alzare alle 11? Ma che senso ha? Cioè, io finché c'è qualcuno che si deve alzare presto, sono disposto a alzarmi presto anch'io. Quando saremo tutti, dormiremo fino a mezzogiorno perché avremo. Non so chi, qualcuno che ci serve dal cielo, va bene, mi va anche bene, ma se no no. Cioè non. Questo è un po' un passaggio che mi è venuto dalla lettura di molti testi buddisti, vabbè, insomma, la figura del Bodhisattva, no? Il quale non è che soffre più personalmente, perché va bene o male la sua vita, ma perché fa sua la sofferenza del mondo, cioè ascolta le urla, le grida di dolore che ci sono nel mondo. E questo è un primo passaggio, per cui se mi vedete che mi alzo presto, sì, perché mi fa piacere, sì, certo, io non sono uno che fa troppa fatica, devo dire, non è fare più fatica andare a dormire tardi, ecco, quindi non è che però lo faccio e comunque mi occupo di certe cose perché ne vedo la valenza etica. E uno mi dice: beh, sei proprio imbecillito perché hai i mezzi per vivere, perché non ti fai una vita più leggera? Ma per me questa è una vita leggerissima. Perché mi fa piacere, ma allora ti fa piacere? Sì, mi fa piacere non perché non fatico, fatico, ma mi fa piacere perché ne vedo le cose, insomma, ci vedo lo scopo. Qualche tempo fa sono stato a Rapallo, la combinazione, avevo posteggiato la macchina lì, vado per pagare il ticket della macchina, si avvicina il ragazzo. Che mi dice se gli potevo dare qualcosa, era un albanese, doveva essere, sì. E c'aveva i pantaloni strappati, l'acconciato piuttosto malino. E io gli do 1 euro così, benissimo. E vedo e sento lì vicino un abitante di Rapallo che passa e dice: accidenti, questi negri, ma proprio dappertutto devono venire, non ce li toglieremo mai di torno. Cioè, negro con senso di emigrati, queste cose qua. Io ho guardato la faccia di quest'uomo, di questo ragazzo giovane, no? E ho visto il dolore che c'era nella sua faccia. Non me lo potrò mai più dimenticare. Ma dico: ma questo cosa viene qua? Pensa che questo abitante di Rapallo, magari che viene a bella villa, ma cosa pensa che quest'altro sia venuto qua a divertirsi? È venuto qua perché a casa sua non c'è da mangiare, perché è disperato, no? Ecco. E allora mi sono avvicinato a quest'uomo e gli ho detto: no, senti, ho sbagliato, non ti do 1 euro, te ne do. E ho tirato fuori il portafoglio e ho dato 50 euro, proprio davanti, in modo che lo vedesse anche quell'altro. Tienti, per capire che io la penso proprio diversa. Questo qua mi ha abbracciato e mi ha detto: ma tu sei mio papà. E mi ha commosso in un modo che è stato pazzesco. E mi ha raccontato la storia della sua vita. E lui vive in una casa diroccata, non abitabile, non c'ha gas, non c'è luce, non c'è nulla per farsi da mangiare, non sa come fare, e quindi è ridotto in uno stato di assoluta povertà. E gli ho detto: guarda, se tu mi puoi procurare un lavoro, io ho bisogno di lavorare, cosa devo fare? Ho sentito un dolore pazzesco. E quando ho contattato lui, ci siamo abbracciati, ho sentito che cos'è l'umanità. quel tipo di umanità che purtroppo nel nostro mondo troppo ricco non c'è quasi più. Quando si va alle feste ci si dovrebbe divertire, che bello, beviamo, facciamo queste cose. Ma che rapporti sono questi? Se uno sapesse che cosa ho provato io nell'abbracciare questa persona qua, ma quella è una festa. Contattare un essere umano a livello profondo dà una gioia che è infinita, perché contatti il divino. Allora noi siamo presi da delle sciocchezze. E la cosa tremenda è che crediamo che quelle sciocchezze siano una cosa utile, bella per noi, che ci fanno bene, anzi io mi voglio bene, quindi, e quindi mi procuro questo bene, mi compro questo, perché mi voglio bene. Ora, se tu ti volessi bene, dovresti poter abbracciare delle persone come ho abbracciato quello lì, quelle volersi bene, perché senti che il tuo cuore si apre. Voglio dire due cose sul centro del cuore. Sapete, il cuore è circondato da un muscolo che si chiama pericardio, che lo protegge. Via via che le emozioni forti ci colpiscono, questo pericardio si indurisce, finché il cuore è protetto, ma noi da una parte diventiamo sempre meno sensibili. E c'è un osteopata che ha creato un'associazione che si chiama Associazione Viva il Pericardio Libero, cioè dice che finché questo muscolo non si rilassa, non si distoglie, non riusciamo più a sentire davvero. E tieni presente che questo muscolo è collegato con i centri più importanti del corpo, con certe zone del cervello, col fegato, col pancreas, con tutti i nervi spinali. Quindi è un punto fondamentale. Oggi l'anatomia ci spiega questo, cosa che era ben nota anticamente quando si diceva il centro del cuore è il luogo da cui capiamo l'universo, capiamo, cioè gli indiani d'America, alcuni indiani dicevano è l'occhio del cuore che ci fa vedere la realtà, cioè quando il pericardio è libero. Allora, perché questo movimento di Aleph? Ah, io questo che voglio. Dei libri, ma io posso bruciare, cosa me ne fate dei libri? A me interessa liberare il cuore delle persone. I libri sono un optional, cioè voglio dire, possono anche diventare un gioco mentale, la filosofia, se è sapienza, cioè stile di vita, magnifico, se diventa un gioco mentale vale quanto il bridge, cioè non vale di più. Ecco. Ci occupiamo in questo periodo anche di economia, di varie altre discipline, perché non possiamo occuparci solo di psicologia, la psicologia da sola è sterile, bisogna occuparsi dell'uomo e del mondo in cui vive, va conosciuto. Allora il nostro compito è questo. Chi vuole collaborare a questo compito, fantastico, io posso solo dire che per me è una gioia infinita fare questo, per cui non ci rinuncerei per nulla al mondo. Tutto questo l'ho imparato a casa di Porena, dove, da Boris Porena, da cui sono stato ancora al periodo di Natale, e ho visto che quest'uomo, ormai sofferente dal punto di vista fisico, vive comunque sempre nella gioia, perché è preso dalle sue ricerche che hanno sempre un senso nei confronti del mondo. Da lui ho preso tutto questo, da allora non l'ho più smesso, ecco, e questo è un po' il senso del lavoro di Aleph, ecco. Quindi la psicologia, il lavoro personale, oggi posso dire, io sono interessato al lavoro personale per liberare il nucleo di luce che c'è nelle persone, cioè quel nucleo che fa sì che una persona smetta di essere egoista, smetta di essere, cioè, ipnotizzato, apre il centro del cuore, vede la sofferenza nel mondo e si comporti naturalmente di conseguenza. Quindi non faccia più, non continui a assecondare un sistema entro cui viviamo che è dannosissimo, sia per noi per primi, perché viviamo una vita deprivata, economicamente no, magari per molti, alcuni di noi, degli oggetti no, ne abbiamo fin sopra le campane. Ma dal punto di vista relazionale noi potremmo vivere vite infinitamente più intense, con una gioia che non è paragonabile a quella che c'è oggi. Nicola Donti, che è uno dei nostri ragazzi, una volta parlando di queste cose con degli psichiatri, gli venne detto, ma di cosa stai parlando? Ma l'uomo non è fatto per la gioia. Tutto quello che possiamo ottenere nel lavoro con le persone è una sostenibile infelicità. Vabbè, questo noi non siamo d'accordo, cioè no, l'uomo non è fatto per avere un'insostenibile felicità, questa insostenibile infelicità ci sarà sempre finché daremo ragione al sistema di potere, allora per forza, sono uno schiavo e vivendo da schiavo è per forza, vedi, scusa, nel film di ieri, quegli schiavi quando fossero sbarcati a terra, fossero andati in una piantagione, certo erano infelici in modo sostenibile, mentre nella nave soffrivano appena l'inferno. Ma è quello che vogliamo per gli esseri umani, è quello che vogliamo per la natura, ma scherziamo. Ecco, questo è il messaggio sul quale vorrei trovare appunto compagni di percorso. Adesso ne abbiamo già, ci siamo già, c'è un certo numero, ma bisogna sempre allargarci in questa direzione. Questo è il nostro, va bene? Ok. Ti fermo qua, volete fare dei... Ma io volevo solo Sì. aggiungere un piccolissimo commento, è sostanzialmente una forma di gratitudine, nel senso che personalmente, e so di portare, di parlare per molti altri, è già arrivato parecchio di questo tuo impegno. E posso dire solo questa frase qui che mi ha colpito e che appunto era una voce che parlava per parecchi altri. Una persona, in un seminario, alla fine di un lavoro personale, ha detto, proprio nel pieno della commozione, diceva: io ogni volta che vado via da questi seminari, sono, da un lato mi spiace lasciare questi amici, eccetera, ma dall'altro sono felicissima perché vedo, finalmente trovo un posto, dove veramente si vive come io vorrei, come nei miei sogni Come più dei sogni. belli, mi piacerebbe vivere. E quindi questo nasce, tutto sommato, nasce da questo Da tuo questo. impegno e di Carolina e di E di tanti tanti altri altri, che... ormai, Sì. Eh Barbara, di tutti, di Valentina, sì. cioè, ormai Sì. tante persone, perché guarda, non esiste, Aleph esiste soltanto perché siamo riusciti in qualche modo a creare delle relazioni che lo consentono. Non esiste la persona singola, ma cos'è? Persona singola è nulla, è l'insieme delle relazioni che si Sì. generano, è quello che, ecco. Quindi è questo sistema di relazioni, il modo in cui ci relaziona, che è ciò che possiamo portare avanti, e questo con proprio con entusiasmo, insomma. Va bene, ok? Benissimo.